L'atmosfera è bella, ma i bomboni non mancano mai. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Possibilità per la Juve, ancora con Morata, il tocco nella zona di Vidal, lo scarico verso Pirlo, Pirlo prova, Pirlo! Pirlo! Pirlo! 2-1 Juve, minuto 93, minuto 93, in 10 contro 11, Pirlo con una traiettoria incredibile! A girarsi Llorente in area di rigore, serie di rimpalli, arriva ancora Tevez, poi Pogba! Pogba! Terzo gol contro il Napoli, forse più bello degli altri due, è un capolavoro di un fenomeno assoluto che al 29esimo porta la Juve in vantaggio, mamma mia! Trattenuta di Costa, evidente su Tevez, si prosegue per il vantaggio perché Tevez è partito, ancora Tevez in campo aperto, salta anche Lucarelli, Tevez, che azione! Tevez! Si è fatto tutto il campo, torna a segnare dopo 6 partite tra campionato e coppa. I take it in but don't look down. Pallone ancora per Carlitos Tevez che è pronto al traversone, eccolo che arriva insidioso, Yang Ambiwa. Poi al volo! Sinistro, colpo di testa, rete, la Juve in vantaggio, scavalcato Llorente, la prende di testa Vidal alla 32esimo, Juve in vantaggio. Al fischietto in bocca Valeri, che voler, la Juventus è campione d'Italia per la quarta volta consecutiva, da gennaio in poi non c'è stata partita, la Juventus ha dominato e vince il campionato con 4 giornate di anticipo, ma la stagione della Juve non finisce qui, martedì è lo straordinario appuntamento con il Real Madrid, poi la finale di Coppa Italia. Vabbè, Giorgio De Luca, Daniele Buonamici, Gianmarco Ferronato, la smettiamo di suonare i violini, cioè lo sapevamo da mesi che sarebbe finita così, si trattava solo di aspettare il verdetto della matematica. Ciao Pierluigi. Ciao, come va? Ma benissimo, dai, stiamo sviolinando il campionato, il titolo della Juventus, ampiamente meritato. Può dire qualunque cosa, 8-0-0-24-0-0-24, poi si riapre il solito discorso 31-33, ma non mi sembra questo il punto, stagione totalmente dominata. Abbiamo cercato, noi più che altro con le parole, i competitors quest'anno davvero poca cosa, con qualche fatto di tenere vivo con il respiratore un campionato che forse è vero, no? Abbiamo sentito prima compagnone finito a gennaio. Ci sono dubbi e occhio a esagerare con le clip perché poi ci chiama Allegri e ci dice che si sta festeggiando troppo, insomma la Juve mi sembra giustamente concentrata su quello che succederà domani e poi la settimana prossima a Madrid. Secondo me è un'occasione, per me non è una partita, lo dico subito tanto per non fare 0-0, non è una partita chiusa, la Juve secondo me ha delle possibilità più di quelle che si pensi in giro, chiaro che Real è favorito, insomma, però secondo me siamo nell'ordine del 65-35, 60-40, non è secondo me, non sarà un massacro, questo è quello che penso, dipenderà molto dall'atteggiamento che la Juve avrà in questa partita, è chiaro che è preferibile vedere l'atteggiamento che si è visto col Dortmund rispetto a quello col Monaco. Detto questo però insomma sono curioso di vedere questa sfida e penso che la Juve sia cresciuta tanto, sì, e il Real Madrid arrivi a questa partita con qualche... molti dubbi, Benzema non è stato convocato, Modric fuori tutta la stagione, Benzema non è stato convocato, Bale dovrebbe giocare centravanti ma sappiamo com'è Real Madrid mal digerisca bene. Insomma, il Real Madrid ha i suoi problemi, anche se ha vinto a Siviglia, ne abbiamo parlato anche ieri, una partita importante. Senti, parliamo un po' di Milan, che ieri sarei commentato, che ieri sarei commentato a Napoli. È stato preso a pallonate, non una gran notizia. Non credo, io Pierluigi, che questa settimana verrà discusso Inzaghi. Forse non è la settimana giusta per altri motivi. Guarda, io credo che il vero paradosso che in qualche modo racconta la tristezza, la rassegnazione del momento rossonero è che una sconfitta come quella di ieri si rischia quasi, e Inzaghi l'ha fatto, di scambiarla come una partita in cui la squadra ha lottato. Posso fare un inciso? Cioè, sì. Espulsione dopo 49 secondi, può starci dal punto di vista tecnico regolamentare, ma non dello spirito del gioco, posso dirlo? Che doveva fare quindi? Che doveva fare? Non doveva cacciarlo perché per lo spirito del gioco? Secondo te? Secondo me quella è rigore ed espulsione, le regole sono quelle, poi posso essere d'accordo che per me rigore ed espulsione è sempre, lo dico con chiarezza, è sempre una punizione esagerata. Sì, è una specie di condanna a morte sportiva. Soprattutto sì. Però a me diciamo tra virgolette indigna di più quando c'è un intervento del portiere, nel senso che il portiere per stessa definizione è ultimo uomo, sapete che sì. Non vale più sì, l'ultimo sì, uomo, sì, ma è chiaro, chiaro, certo. Però quasi sempre il portiere quando si trova nell'uno contro uno contro un attaccante avversario e prova onestamente a cercare di prendere il pallone ma non lo prende, spesso c'è anche il cartellino rosso, e quella secondo me è una punizione esagerata, perché quello è il lavoro del portiere. Il portiere per definizione si trova in un punto dove è ovvio, occasione da gol. Sì. No, io non sono d'accordo, per me era rigore ed espulsione, punto. E poi è chiaro che è un episodio che ha molto penalizzato il Milan, e ti dico che il Milan, tutto sommato, l'ho anche detto in cronaca, dal punto di vista strettamente difensivo e di organizzazione di squadra, ha fatto un 4-4-1 dignitoso. Che infatti gli ha consentito di tenere fino al 65esimo, poi però si è proprio c'è stato il crollo di una diga, no? La cui faccia ricordi il crollo di una diga, come canta il principe Francesco del Gloria. Secondo te questa settimana sarà quella di una ennesima discussione su Inzaghi? No, perché gli argomenti difensivi sono finiti. No, stasera io ho Brocchi in trasmissione e dovevo raccontare questa retroscena. Sì. Cristian è un opinionista, non dico fisso, però è venuto 4-5 volte quest'anno. Sì. E insomma, noi non lo mettiamo neanche troppo in imbarazzo, nel senso che comunque chiaramente gli chiederemo la sua sul Milan, ma non soltanto sul Milan. E un paio di volte insomma è rischiato di saltare, una volta mi pare sia addirittura saltato proprio perché c'erano queste tensioni. Posso dire che stavolta non dovrebbe essere così, ma del resto la notizia è arrivata ieri sera, è arrivata proprio prima ancora che cominciassero le interviste da parte degli addetti stampa del Milan. La conferma è fino alla fine della stagione, per cui insomma poi per carità mai dire mai. È chiaro che Milan-Roma 0-5 probabilmente Inzaghi lo cacciano, però comunque se non viene mandato via dopo un 3-0 a Napoli fuori casa, che è la terza sconfitta consecutiva, 19 punti nelle ultime 19 gare, visto che ne mancano 4, io penso che sia veramente a questo punto una certezza sul fatto che rimarrà fino a fine stagione. Sì, dovuta ad altre circostanze che conosciamo benissimo, che sono ancora abbastanza misteriose, fumose nel limbo. Beh, ci sono responsabilità anche sue, l'abbiamo detto mille volte. Non stiamo a discutere, Pier. Io sono perfettamente d'accordo con te che ci siano responsabilità anche sue, che siano grandi, che possano essere giustificabili in funzione del fatto che si sta costruendo come allenatore. Questo è un altro discorso, lo hanno fatto molti altri, anche Ancelotti ha fatto i suoi errori, tutti grandi hanno fatto i loro errori, però che ci siano responsabilità di Inzaghi in una classifica che è insopportabile, credo, per i tifosi milanisti, questo è fuori. Ma anche perché l'allenatore diventa in qualche modo la sintesi di tutto, l'amministratore delegato. Ci sono certo. Responsabilità dei singoli giocatori, però l'allenatore alla fine risponde, è la summa, è chiaro, la summa, no? Complimenti a Pioli, o facciamo i complimenti ad Allegri perché ha fatto fiorire i talenti delle rispettive squadre, insomma Inzaghi delle responsabilità se le deve prendere. Per me questo Milan non vale 43 punti in classifica, diciamo. Secondo te non se ne è presa a sufficienza? Cioè secondo te ha sbagliato in qualcosa dal punto di vista della assunzione responsabilità / comunicazione? Beh, insomma, diciamo che lui ha provato a difendere tutto e tutti anche per salvare la squadra. Io, guarda, veramente sono un po' in imbarazzo perché ho grande rispetto, grande stima e anche, ripeto, grande fiducia per il futuro. Penso che Inzaghi sia un patrimonio vero, insomma, ragazzo intelligentissimo, furbo, scaltro in campo, di cultura, insomma, quindi. Però insomma i risultati sono evidenti, lui sì, ha messo questa faccia qui da quando sono cominciati i problemi, ha difeso la squadra, Però conosciamo quali sono le regole del gioco. Le regole del gioco sono che questo, ma soprattutto questo Milan qui, al di là della classifica, che chiaramente non è un dettaglio ed è drammatica, ma non ha mai, se non nelle primissime giornate, giocato per vincere le partite. Uh-huh. Questo secondo me, che è una cosa che può sembrare sottile, ma è il vero problema. Uh-huh. Questa squadra ha giocato troppo di riflesso, ha giocato troppo speculando sul risultato. Non è da Milan questa roba qui, per cui al Milan tu puoi perdere le partite, perché poi insomma ci sono state delle fasi storiche e questa è sicuramente una di quelle in cui non sei all'altezza, però devi provare a imporre il gioco con la U. Sì, da questo punto di vista Berlusconi è un modello estetico, cioè lui in testa c'ha quell'idea di calcio e ha cercato di realizzarla. Poi delle volte esagera quando dice che gli attaccanti sono in area di rigore, che devono giocare 21 attaccanti, ma i calciatori sono 11. Però certo, una logica molto spagnola, molto filosofica, che l'ha dimostrato quei risultati. Lui vuole che la squadra giochi in quel modo e questo Milan non l'ha mai fatto in tutta la stagione. Ci fermiamo per il traffico, poi continuiamo a parlarne, parliamo anche di Juventus, parliamo dell'anniversario del Toro, parliamo di nuovo di Milan, di prospettive che aspetta, di prospettive europee, di Champions e di Europa League. 800 24 00 24, state con noi. Attenzione intanto alla mucchiata, però tutti convocati. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. vi presenta tutti convocati, i campioni d'Italia. Bacigalupo, Ballarin Aldo, Ballarin Dino, Buongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Grezar, Loic, Maroso, Martelli, il nostro capitano Valentino Mazzola, Menti, Operto, Ossola, Rigamonti, Schubert, dirigenti e tecnici, Civaglieri, Egri Erbstein, Livsley, Agnisetta, Cortina, giornalisti, Casalbore, Cavaliero, Tosatti, equipaggio, Meroni, Dinca, Bianciardi, Pangrazzi, Bonaiuti. Questa è la voce di Glick, capitano di oggi, che legge quanto avete sentito. In giorni come questo vale tutto, vale la commozione, vale anche un po' di retorica come quella di Roberto da Crema, che scrive: scusate, 4 maggio 1949, ora 17.03, onore agli immortali, ora continuate con quello che chiamate calcio. Federico Ferri da Sky, buongiorno. Buongiorno, ciao. Calcio è tutto, lo voglio dire a quel signore di prima. Il calcio è tutto. Ha ragione Pardo, bravo. Splendori, sì, e miserie, sono scandali, storie, bellezza, sono storie, sono drammi. Cronaca, sì. Il posticipo di B e la finale di Champions League, con tutto rispetto per il posticipo di B, è tutto. Quindi, insomma, certamente, insomma, io non c'ero, ma neanche Federico Ferri, però stasera li avrei amati, sicuramente li avrei rispettati, quantomeno insomma come una grandissima squadra e come un'enorme tragedia. Il rispetto è senza tempo, questo diciamolo sempre, li avrei amati, li avrei rispettati, non vale il passato in questo caso, vale il presente. Il rispetto, certo, è senza tempo, questo, certo, ricordiamolo sempre a tutti, certo, quanti, certo, che sia chiaro. Federico, stasera su Sky racconterete con buffa la storia del grande Torino. L'abbiamo fatto anche su Radio 24 con Dario Ricci, due puntate di Olimpia, mi sembra i giorni giusti. È molto bene, l'avete fatto. Mi sembrano i giorni giusti, no? Cioè, mi sembra il giorno in cui bisogna rendere questo sì, omaggio. E anche l'anno pro, tra un anno, quando saranno 67, poi 68 e poi 69, sempre chiudendo, secondo me, la discussione con il rispetto non finisce mai. Non è una questione di anni o di tempo. Sì, ma questo è verissimo. Poi anche a me non piace mai dire queste cose assolute, nel senso, sì, e adesso non parlate di adesso, no, ma ha ragione Pierre, è tutto ed è sicuramente anche mito, epica, e questa è una storia che è entrata nel mito, che non è più solo calcio, questo è un pezzo di storia d'Italia, certo. proprio perché in quegli anni più che mai è un pezzo di storia d'Italia, perché ha attraversato uno dei momenti più forti, più dolorosi, più drammatici, più incredibili, più esaltanti da certi punti di vista. È una storia che va dal 39, da quando Ferruccio Novo comprò il Grande Torino e divenne presidente, fino di fatto al 49, alla tragedia di Superga. e questo è importante. Hai fatto sentire prima e devo dirti che quando sento Glick che dice il nostro capitano Valentino Mazzola, ogni volta ho un momento di emozione particolare, e hai fatto sentire il finale della puntata che andrà in onda questa sera alle 18.45, alle 22.45 di Buffa racconta storie di campioni, e il finale è esterno alla puntata, è questo cameo, questo omaggio che ci ha fatto Glick, che ha letto davanti alla lapide di Superga, come farà oggi poco dopo le 17, i nomi dei 31 morti della strage aerea del 4 maggio 1949, ed è molto forte vedere come si tramandi tra i giocatori del Toro, tra la gente del Toro, la storia. Io sono torinese, non è un discorso di tifo, no? Di sì. Una squadra o di un'altra, però posso raccontarvi, per uno che ha sempre vissuto a Torino e peraltro sa bene che ogni anno il 4 maggio a Torino piove, adesso io sono a Milano, però sono partito questa mattina da Torino e pioveva ovviamente anche oggi, e che ti ritrovi questi giocatori, ti ritrovi questa storia anche dove non te l'aspetti. Durante la puntata questa sera vedrete che Buffa legge un libretto, che è un quadernino di appunti del presidente Novo, che è stato custodito per anni da Franco Ossola, il figlio di Franco Ossola, sì, del grande Torino. E nelle ultime pagine di questo libretto ci sono appunti che sembrano strani, ma poi ricostruendo si capiscono. C'era aiutare a pagare la pigione a, parentesi, il nome di Loris, perché il giocatore del Torino andava dal padrone di casa e diceva: ma questa è una tifosa del Toro, è un tifoso del Toro, non riesce ad arrivare alla fine del mese, ma se gli date ancora un mese magari riesce a pagare. Cioè, questo era il rapporto simbiotico che c'era in quel momento fra quella squadra e quella città, sì. Che poi è diventata la squadra più amata al mondo, perché allora era la squadra più forte del mondo, e probabilmente oggi rimane la più grande squadra italiana di sempre. Passando all'attualità, traghettandoci con una certa difficoltà verso l'attualità, Pierluigi, adesso c'è la grande Juventus, che non è grande certamente come quel Torino, ma che si è costruito un regno in Italia sul quale io onestamente non riesco a vedere un tramonto, come il Bayern in Germania, Barcellona, Real in Spagna, Paris Saint-Germain in maniera più recente e occasionale in Francia. No, questa è un po' una tendenza secondo me del calcio moderno, nel senso che chiaramente l'aspetto business è importante, e quindi più vinci e più fai soldi, e più fai soldi e più puoi comprare e più puoi comprare, quindi non vale soltanto per la Juve. Se guardiamo le tendenze che ci sono in giro per l'Europa, a parte il campionato inglese che è abbastanza equilibrato, è ovunque anni, così, è ovunque, ma in Spagna c'è stata questa incredibile prodezza dell'Atletico Madrid lo scorso anno, ma sicuramente insomma Atletico Madrid, Valencia, Siviglia, le squadre subito della grande borghesia fanno tantissima fatica rispetto al passato a iscriversi nella lotta per lo scudetto. È sempre comunque un dualismo Real Barcellona. In Germania c'è soltanto il Bayern, la Bundesliga non me ne vogliano gli appassionati, è diventata noiosissima da questo punto di vista, perché si gioca per il secondo posto. Quindi questa tendenza non è una tendenza solo italiana. La Juve ha preso un bel vantaggio perché ha una squadra, può concentrarsi ogni anno su uno o due innesti. È un po' il discorso che era capitato all'Inter qualche anno fa. Insomma, il tramonto faccio fatica a vederlo, perché se anche ci dovesse essere il sacrificio di qualche giocatore, penso a Tevez, penso soprattutto a Pogba, mi sembra che, sì, ci sarebbe arriverebbero le risorse le finanze per poter sostituire, non dico quindi di migliori, ma quantomeno all'altezza. Quindi le altre si devono inventare qualcosa. La sensazione, l'illusione l'anno scorso della Roma era stata quella di poter in qualche modo iscriversi nella lotta per lo scudetto. Mi sembra che un anno dopo la Roma sia in evidente ritardo da questo punto di vista, anche se sicuramente ha ancora dei grandi valori. Però se penso alla costruzione sulle milanesi dell'anno prossimo, non vale la pena scommettere un euro in questo momento, e dunque siamo il Napoli, ti dico la verità, il Napoli secondo me riuscendo a fare un grande lavoro per tutto ciò che riguarda il pacchetto di difesa e il centrocampo potrebbe riavvicinarsi, così diciamo come anche la Roma potrebbe avvicinarsi. Diciamo che siamo alla ricerca di un altro Atletico Madrid, alla ricerca di un Atletico Madrid italiano in un regno dominato dalla Juventus. Per chiudere con Federico Ferri, può essere una domanda epocale, ma questa concentrazione di potere che accade in tutti i paesi europei potrebbe preludere a strutture diverse in un prossimo futuro? Voglio riferirmi, tanto per essere chiaro, Superlega, Eurolega, Supercampionato, eccetera, eccetera, perché se tutte queste corazzate continuiamo a lasciare nei loro stagni, non ci divertiamo più, neanche dal punto di vista televisivo. Hai ragione, io credo che fin quando il governo del calcio europeo è nelle mani di Platini, nella gestione che ha preso in questo momento, non la vedo facile, perché il processo è quello di un rafforzamento delle competizioni europee per dare sfogo a queste grandi squadre, quindi aumentando il livello di Champions League ed Europa League. Non vedo una Superlega alle porte, non lo vedo per molti motivi anche di interesse dei club nei rispettivi campionati domestici. Il punto piuttosto è la capacità di queste squadre di rinnovarsi. Bisogna capire se è più facile estrarre qualche jolly, come dovrebbero fare Milan, Inter, Roma, per tornare competitive, o rinnovarsi. Adesso la Juventus è di fronte a un bivio, secondo me, cioè scegliere se cambiare tanto, parlo di gestioni grosse, si poteva essere un per potersi rinnovare, come ha fatto già in passato la Juve della Triade, oppure mantenere ancora questa ossatura. Se pensate però alle squadre che hanno fatto i cicli più lunghi, il Milan che è passato da Sacchi a Capello, la stessa Juventus dell'epoca di Moggi, Giraudo e Bettega, tra il 96 e il 97 cambiarono praticamente mezza squadra, ecco, sì, sì. Ancora dopo con Zidane, così si dura molto di più. Altrimenti il ciclo, seppure lungo, è destinato a finire. Io credo che la Juventus ci stiano pensando molto, e credo che quest'estate il mercato sarà molto interessante. Sì, anche perché il credito è sufficiente per prendere ogni tipo di decisione. Grazie Fede. Grazie Federico. Grazie ancora. Fermiamo un attimo per la borsa, poi torniamo anche con gli ascoltatori. C'è già Maurizio da Parma, stia lì. 800240024, numero verde, ci fermiamo. Prima però il mucchio selvaggio. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. State ascoltando un programma offerto da... Fai fare alla tua attività lo scatto vincente. Vai su ingiroperlavoro.it, puoi vincere il nuovo Citroen Berlingo. Via! È cominciata Napoli-Milan! Tutti convocati. Via, è cominciata Napoli-Milan, 49 secondi, deciglio fuori, poi un po' di attesa, un po' di resistenza rossonera e via, bam bam bam, tre palloni e via andare. Maurizio Parma, buongiorno, è con noi Pardo naturalmente, cui può rivolgersi eventualmente anche con parole pesanti, apostrofandolo, quello che vuole. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo intervenire in merito alla partita Napoli-Milan. Premesso che sono un tifoso del Napoli, sì. Però io sinceramente trovo incredibile come si possa esaltare la partita del Milan, che ha fatto praticamente 70 minuti chiuso in difesa come una provinciale. Voglio solo ricordare che devono fare, Maurizio, che devono fare? Povere, risponde Pardo che l'ha commentato. Che possono fare? Sono in una condizione disastrosa. Sono un in meno al 49 secondo. Io vorrei ricordarvi Pierluigi, cosa stai dicendo? No, chi l'ha esaltata questa partita del Milan? Ah. Ho guardato la trasmissione ieri sera, giornale, diciamo Domenica Sportiva, Sky, non Mediaset, dove praticamente elogiavano la prestazione di squadra, no? E allora io ho ripensato alla partita di giovedì o mercoledì, non mi ricordo, di Udinese-Inter, dove l'Udinese in 9 ha rischiato praticamente di pareggiare la partita, cioè ha giocato fino all'ultimo minuto ed è l'Udinese, cioè il Milan che ha tanti titoli, che si pregia di essere una grande squadra, sinceramente essere esaltati perché hanno fatto una prestazione da squadra, avendo giocato 70 minuti chiusi in difesa in 9 dietro la linea del pallone, cioè, I titoli non vanno in campo, guardi, va in campo una squadra che non ha in campo una coda. Piero, non so, adesso sinceramente non ho seguito la Domenica Sportiva o Sky ieri sera, ma no, mi sembra nel caso mi sembrerebbe abbastanza discutibile. Il Milan ieri è stato travolto, ha fatto, l'unica cosa che si può dire è che ha tenuto decentemente nel primo tempo con un 4-4-1 piuttosto logico, robusto, che ha tenuto, ma insomma che la dimostrazione di pochezza del Milan di ieri sera è stata sconcertante. Insomma, io lavoro a media, se questa è una medaglia per l'azienda della quale lavoro, non è che ci sono condizionamenti. Il Milan di ieri sera gli si può dare al massimo l'attenuante di aver giocato 90 minuti 10 contro 11, ma il dominio del Napoli è stato nettissimo. Sì, e poi soprattutto niente di nuovo su quel fronte, perché è una squadra che partiva con un miliardo di problemi. Lo sanno gli stessi dirigenti del Milan, lo sanno gli stessi giocatori, gli stessi tifosi. Il calcio da questo punto di vista è bellissimo proprio perché è più trasparente di quello che sembra. Cioè non è che tu vai dal tifoso del Milan oggi a dirgli ma sai che non sei andato di male e quello ti crede, perché ha benissimo gli occhi per vedere quello che è. Guarda, di dignitoso, di salvabile, secondo me c'è il primo tempo, nel quale ha rischiato poco e ha avuto anzi un'occasione clamorosa in contropiede con Bonaventura, ma poi al primo gol subito si sono aperte delle autostrade, i gol sono stati tre, potevano essere di più. Com'è normale per una squadra in difficoltà, Pier? È stato Diego Lopez. Certo, com'è normale per una squadra in difficoltà, reggi, poi al primo scossone crolli in maniera veloce e definitiva. Ciro Roma. Buongiorno e grazie per avermi fatto entrare in campo, qui la convocazione non basta più. Dica. Allora, volevo spostare, se è possibile, un attimo solo l'attenzione sul rapporto, ne avete anche un po' parlato da un punto di vista finanziario, tra il calcio italiano e il calcio straniero, perché io ho intercettato un problema, non mi interessavo granché di calcio, ma diciamo per problemi di lavoro ho girato un po' tra l'Europa, il Sud Africa e il Sud America, e là mi sono reso conto che tutti quanti guardavano il campionato inglese, il campionato francese, il campionato tedesco e il campionato spagnolo. Di Italia non c'era nulla, ma la cosa che mi aveva incuriosito allora, che adesso che ne capisco un po' di più veramente quasi mi scandalizza, è l'enorme importanza dell'intero calcio britannico, non soltanto del calcio inglese, sia da un punto di vista televisivo che da un punto di vista di merchandising, nonostante in questo momento ad esempio non hanno nessuna squadra nelle semifinali di Coppa, e a dire la verità non sono poi così tanto spettacolari. E poi ho registrato tra le voci dei tifosi ma sono molto sciarmane, se vogliamo dire. Cioè, in questo momento è quasi un luogo comune il campionato inglese, è quello che diverte di più, è quello, ma anche perché su questo fronte hanno lavorato duro, non è che gli sono state regalate le cose. L'equilibrio secondo me fra tradizione e modernità, cioè hanno accresciuto moltissimo la dimensione economica del gioco, senza però snaturare alcuni aspetti tradizionali del calcio inglese. Gli stadi sono stati comunque belli, sono i diritti televisivi, loro da sempre hanno la cultura dello spezzatino. A me delle volte viene da ridere in Italia quando ancora ci sono queste diatribe su perché giochi a mezzogiorno e perché giochi a mezzanotte. In Inghilterra sono abituati addirittura il calendario del girone di ritorno è diverso da quello del girone d'andata, che si gioca tutti i giorni, quindi francamente da questo punto di vista sono cresciuti moltissimo e quindi io pensavo, poi sai non cosa? Mi dica che pure il francese è meglio di noi. No, ma sai una cosa, poi Pier, sai una cosa, intuitivamente, cioè per uno che non è abituato a vedere calcio tutti i giorni, eccetera, eccetera, il calcio inglese è anche più semplice da capire e quindi più bello, cioè ha meno orpelli tecnici, tattici. È qualcosa di molto più immediato, quindi credo che questo, unito al grande lavoro di marketing che hanno fatto, unito al fatto che hanno i quattrini e quindi prendono i grandi giocatori, cioè lo rende più immediatamente comprensibile. Magari è un discorso un po' astruso, ma io sono convinto anche del fatto che sia così. Torniamo un attimo sul Milan, grazie. No, cosa devo dirgli? Desilio è un ragazzo che gioca in nazionale, che rientra dopo tanto tempo e bisogna avere pazienza. Adesso non ho rivisto l'azione, penso che era un'occasione, ma c'era Paletta lì vicino, insomma. La partita è troppo condizionata per un'espulsione lì, bisogna dare probabilmente rigore, un giallo, perché sennò dopo non esiste più la gara. Mi dispiace, insomma, non era certamente. Non speravamo di non restare in 10 dopo 20 secondi, 40 secondi, è l'espulsione più veloce della storia. Quest'anno ce ne capitano di tutti i colori, però dobbiamo accettare e andare avanti. Non mi interessa, tanto è 6 mesi che si parla del mio futuro. A me interessa la partita e mi dispiace per la mia squadra che per 70 minuti è una partita troppo condizionata, insomma, dopo 20 secondi. Espellere un giocatore è dura. La squadra purtroppo anche in 10 ha lottato, ha sofferto. Non posso dire niente come spirito. Vorrei un confronto serrato tra Pierluigi Pardo e Luca Serafini. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao. Buongiorno, ciao. Come stai? Dove sei? A Ibiza o sei qui fra noi comuni mortali? no, sono di pizza, vivo qua. Hai capito? Però seguo tutto. Hai capito come siamo. Mi stavo ascoltando e vi devo dire che mancava una piccola appendice, cioè il calcio inglese è un altro sport. Sarà una questione di marketing, però se voi avete seguito una partita qualsiasi del calcio inglese, non protestano alla prima rimessa laterale. Sì, quello che dicevo, grosso modo quello che dicevo io, Luca. Io posso dire una cosa, io amo il calcio inglese quasi come la mia famiglia, quindi è proprio una roba che... Però io credo anche, io commento tante partite in Italia, grazie a Dio, e non buttiamoci neanche giù del tutto. Io ho visto bellissime partite in Italia quest'anno, sinceramente. Io credo che quello che è clamorosamente diverso è il contesto, cioè... A noi servirebbero stadi di un certo tipo, sicuramente anche la cultura sportiva della quale parla Luca può essere utile, non ci sono dubbi da questo punto di vista, però io ho la sensazione che stiamo tornando, perché poi la storia è fatta di corsi e ricorsi, di cicli, e quindi insomma non buttiamoci troppo giù, semmai se abbiamo un buon risultato, lo stiamo avendo quest'anno in Europa, cerchiamo di avere un orizzonte lungo, no? Cioè di spingere i nostri dirigenti a fare degli investimenti di lungo termine per stadi nuovi, certo. E non soltanto per prendersi. Ma anche perché poi Pier, da uomini di televisione mi insegnate che il thailandese di turno che scanala, se vede una partita con uno stadio mezzo pieno cambia, certo. Mezzo vuoto cambia canale, se vede una squadra, un contesto, un'immagine con uno stadio pieno dice ma quasi quasi mi fermo 30 secondi. Perché queste non sono sciocchezze, sono mi insegnate. Certo. Voi, certo. Infatti è stato un peccato ieri la partita di Napoli, perché fino all'espulsione del Sciglio il Milan è stato in gara all'altezza del Napoli. Ma cosa ridi? Perché ridi, Pierluigi? No, perché era una battuta che è stato in gara fino al momento. Sì, no, però devo dire una cosa, adesso io non voglio accanirmi, la cosa che dice Inzaghi è sbagliata, cioè nel senso che se il Milan dopo 40 secondi con un difensore giovane ma già nel giro della nazionale come di figlio prende un'azione di questo tipo facile con Insigne che dà, è bravo Insigne per carità, un pallone con l'esterno ma liberissimo, con Anzi che fa quel taglio là dietro e con di figlio che in ritardo non si frena ma va e travolge l'avversario, è perché lì è sceso male in campo, c'è poco da fare e questa è la verità, cioè non è un fulmine o il soprannaturale divino o la congiunzione astrale che ha fatto sì che questo sia avvenuto. No, questo è avvenuto perché il Napoli dopo 40 secondi è già andato in porta, quindi voglio dire le responsabilità da parte di chi appunto deve gestire la tecnica ci sono, c'è sempre un po' questa sensazione, se no veramente finiamo nel discorso di Mazzarri sulla pioggia, che non è il soprannaturale divino, un gol come questo chiaramente condiziona la partita, su questo Inzaghi ha perfettamente ragione, rigore espulsione, poi l'avrebbe condizionato anche di più se l'avesse segnato il rigore Higuain. Però è una cosa che è successa perché il Napoli è stato bravo e il Milan è stato un pollo nelle praticate. Sì, sono d'accordo. Ci vediamo perché l'abbiamo deciso io e Serafini. Vedete, tu e Serafini, allora dopo il traffico continuiamo in questa discussione. Ci può stare? Tutti convocati. Tutti convocati. Intanto Zoro, mi fa piacere la tua domanda e voglio chiarire l'altra volta, io insomma si sono create fra me e te, sei un caro amico, le critiche si accettano sempre, insomma poi c'è il nervosismo della partita a volte, per cui insomma se posso essere sembrato mi scuso. Ma ero più cattivo io di te. No, ma insomma, ma poi insomma io penso che nella mia carriera di allenatore questo anno sarà probabilmente fondamentale. Inzaghi e Boban che si chiedono scusa, Pardo e Serafini, sentite tutta la meravigliosa amarezza che c'è in questo messaggio. Io ricordo benissimo quando Milan-Napoli decideva lo scudetto, c'era Maradona e io non avevo nemmeno la fidanzata, tre puntini, sono sposato da 25 anni. Allora, Luca, non è cambiato niente perché sono sempre single. Luca Serafini, allora Inzaghi adesso non lo si manda via perché ci sono questioni cinesi da risolvere, su quelle insomma ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, oggi non c'è nessuna novità di rilievo, c'è Berlusconi che sta facendo un giorno con la testa e l'altro con il cuore, credo che prima o poi a un punto si arriverà, speriamo non tardi perché il tempo stringe. No, infatti anche perché ormai è tempo in cui le altre cominciano già a fare mercato, continuo a sostenere che insomma Berlusconi che abbandonato il Milan un po' a se stesso in questi ultimi anni, ha l'ultima occasione per lasciare un'eredità che è mancata un po' nel suo gruppo, è mancata un po' a tutti i livelli di Fininvest, come una classe dirigenziale nuova che non c'è. Non è stato possibile dare seguito al Milan con persone di famiglia, con persone del settore, con persone che siano cresciute nel management. Allora passare la mano a qualcuno che, oltre ai soldi, e mi pare che questi perlomeno a parole ce li abbiano tutti, abbia veramente anche un progetto, perché il Milan di questi non merita le figure di queste ultime due stagioni. Ah, momento di lasciare, poi ne parlavamo anche ieri, Pier Berlusconi ha detto è una faccenda di cuore, però qui stiamo parlando di un affare da un miliardo di euro, quindi sì. Cuore va bene fino a un certo punto, c'è, credo ci sia una parte della famiglia che stia premendo. Non è che si tratta di vendere Pato e prendere Tevez come quell'altra volta, in questo caso si tratta di risolvere una questione un po' più grande. Van bene gli affari di cuore, ma stiamo parlando di una grande azienda italiana. E stiamo parlando anche di 49-51, questo 2% che fa però tutta la differenza del mondo, sì, dare o meno il controllo del club. Io credo che questo sia veramente il nodo. Credo che Berlusconi, io lo capisco in maniera straordinaria da questo punto di vista, abbia mixed feelings, cioè abbia sentimenti contrapposti in questo momento e faccia fatica a separare le questioni, perché da un lato credo che ci sia la razionalità, dall'altro c'è ovviamente l'amore e l'affetto, poi c'è ovviamente anche tutto il discorso legato alla sua immagine, al suo rapporto con i tifosi rossoneri, quindi insomma c'è tutta una serie di elementi che sono da considerare in tutta questa storia. Io penso che appunto il nodo sia quello, 49-51, mantenere il controllo, è una questione di fondo molto importante. Cioè io senza nessun esercizio di piaggeria, perché cito in continuazione il Sole 24 Ore che nell'aprile del 2013 ha scritto che la liquidazione è una parola inesatta, ma insomma il grazie a rivederci a Galliani costerebbe più di 100 milioni di euro lordi, e questo è un debito che qualcuno si deve accollare, primo. Secondo, in queste vicende, a mio avviso, sempre senza fare nessun tipo di piaggeria, è più interessante leggere il Sole 24 Ore della Gazzetta, perché francamente anche l'uomo della strada ormai non capisce perché una persona debba attraversare il pianeta per venire qui a mettere 500 milioni, prendersi il 49 e tornarsene a casa. Questo non esiste. Ma perché questo semplicemente non è così. Il 49 secondo me non esiste. La possibilità di un ingresso di un socio, però non so se a questo punto possa essere Mr. B, con una quota di minoranza che vuole entrare nella gestione del Milan, e questa è una cosa potenzialmente che è possibile, no? Tante volte il Milan l'ha detto in passato, era a caccia di soci, come tutte le aziende del mondo, no? Tutte le aziende del mondo io non l'ho mai vista, però però sono comunque gli utili, cioè c'è comunque gli utili della partecipazione a un progetto, non è che se tu metti il 20% di una società sono soldi buttati. No, devi partecipare anche alle perdite che sono cospicue, e partecipi caso, senza avere diritto di parola. La mia sensazione è che 90 milioni all'anno. Sono d'accordo, infatti in questo caso secondo me poi alla fine il nodo vero, fondamentale, è quello lì, è capire se realmente Berlusconi mollerà la maggioranza del pacchetto azionario. Questo è il vero grande tema, e francamente poi tutto il resto mi sembra contorno, mi sembra schermaglie, mi sembra giustamente, io la vivo, forse sarò un po' ingenuo, un po' naif, la vivo anche come così il tormento di un uomo che è il primo tifoso del Milan, comunque l'ha fatto vincere tanti in questi anni, che ultimamente sicuramente sta avendo dei problemi dal punto di vista della gestione del club, ma che insomma prima di ieri ero in uno stadio dove è nata la leggenda del Milan, no? Famoso dell'88, come no. Il tifoso del Milan ha goduto in questi anni in maniera incredibile grazie a questa dirigenza, nel bene e nel male, questa è fede cronaca. Adesso è evidente che per quella che è la storia di questo club c'è bisogno di dare una svolta, e qui la vera domanda, Moratti ha venduto, insomma, sì. È rimasto col 30%, e sappiamo che comunque è una presenza importante. Poi abbiamo visto anche un grande consenso popolare, inaspettato, quando Berlusconi ha detto ma magari mi tengo il 51, non dimentichiamo che stagioni come queste forse sono sopportabili nei limiti, perché ha vissuto la Serie B e tutte quelle storie, ma per i ragazzi che hanno ormai 30 anni, che hanno visto solo trionfi e vissuto solo trionfi, diventa un po' difficile da capire. Luca Serafini, secco, sei dell'idea di Pardo che Inzaghi basta così anche adesso e anche subito, o forse ieri, oppure si arriva così fino alla fine col motore spento e poi si vede. No, perché mi dispiace, io avevo detto era più difficile concludere in panchina che in poltrona queste ultime 5 giornate, però l'umiliazione ne tornerò a 4 giornate. Cioè, è un giocatore che ha fatto la storia del Milan, già il Milan si è messo alle spalle situazioni come quelle di Seedorf in panchina, poi Pirlo, poi Gattuso, poi Ambrosini, storie chiuse in malo modo. Questa qui, mancano 3 settimane, non cambia niente. Ma infatti andava fatto prima. No, io contesto, ma io non ti dico, il discorso ha la sua logica. Io contesto solo il principio del fatto che, vabbè, tanto... No, cioè, ogni volta che una squadra di calcio, soprattutto una squadra di calcio dalla storia straordinaria come il Milan, scende in campo, è lì e rappresenta la sua immagine. Quindi le 3 sconfitte consecutive, Udine, Genoa e Napoli... Il giorno di Zaghi, mai come in questo caso... È vero che l'allenatore paga sempre per tutti, però mai come in questo caso costituirebbe un alibi che lo stesso Berlusconi, per scendere a Galliani fino alla squadra, non meritano. Perché di questa situazione così catastrofica sono responsabili tutti allo stesso modo. Io sono perfettamente d'accordo sul fatto che probabilmente con un allenatore più esperto, più bravo, più capace, il Milan avrebbe più punti. Però questa situazione del Milan, che non è nata nell'agosto del 2014, sono già 2 o 3 anni che si protrae, il tesoro di Zaghi costituisce un alibi per, ripeto, Berlusconi, Galliani e la squadra, e Berlusconi e Galliani e la squadra non meritano perché sono responsabili tanto quanto. Però la squadra, quindi, la si squadra beve è migliore, l'amaro è migliore calice fino in fondo. La squadra è molto migliore di questa cosa. Sì, però guarda, un po' sì, sono d'accordo su questo con Pardo, però sposo la tesi di Serafini, non per fare il paraculo, ma perché... Ma gli ha fatto anche perché... mercato a gennaio, ragazzi. Gli ha fatto un mercato che però la prova dei fatti è stato sbagliato. La prova dei fatti, esatto. E allora sì, che abbia sbagliato Inzaghi, che abbia sbagliato la società, che abbia sbagliato tutti e due, che abbia sbagliato lui a chiedere dei giocatori, che gliene abbiano presi degli altri che lui non voleva. Però non mi dispiace la tesi di Luca Serafini. Si beve l'amaro calice fino in fondo e, ragazzi, colpa di Pippo, senz'altro, nelle logiche del calcio, pagherebbe lui, però in un contesto come questo, giusto che l'amaro calice se lo bevono tutti, un sorso per volta fino in fondo. Cioè, Saponara, Niang e Torres sono errori di Zaghi, Sì. Non sono errori di Zaghi, tanto per dirne uno. No, poi non sono errori di Zaghi, Luca, però probabilmente su Cerci e su Destro una parola Inzaghi l'avrà messa. Grazie Luca, Pierluigi, ci vediamo stasera ciao. In TV. Senz'altro, ciao. Io ti vedo, tu sei lì. Grazie. Ciao Pierluigi Pardo, ci fermiamo per il GR. Torniamo poi con Lillo, provincia di Venezia, Paolo da Verona e degli altri. 800240024. Tempo che finisce qua. Tutti convocati. Lasciali fare che stanno volando. Vuoi partecipare al nuovo tour di Enrico Ruggeri? Ascolta Radio 24 e potrai assistere al concerto nella tua città. Sarà domani oppure mai. Pezzi di Vita Tour dal 18 aprile nelle più importanti città italiane. Info su radio24.it. State ascoltando un programma offerto da... Fai fare alla tua attività lo scatto vincente. Vai su ingiroperlavoro.it. Puoi vincere il nuovo Citroen Berlingo. Si ricomincia. Tutti convocati. Hazard cerca il numero. Hazard va giù, calcio di rigore. Eden Hazard a 2 minuti dalla fine del primo tempo. Hazard centrale, ancora Hazard di testa, ha bisogno di 2 tocchi e fa 1-0 ed Eden Hazard vince il Chelsea 1-0, il Chelsea è campione d'Inghilterra. Chelsea e sono 5, Mourinho e sono 8 anche lì, il campionato è finito in questo weekend, ho fatto di tutto, qui persino dipinto lo stadio, ha dichiarato John Terry, capitano di lunghissimo corso. Andiamo con gli ascoltatori, raga. 800240024. Mentre, a proposito di allenatori ma ad un altro livello, il Bologna in extremis esonera Lopez dopo la sconfitta con il Frosinone e torna in panchina degli Orossi proprio a Bologna per timbrare una promozione che comunque, insomma, mi sembrava lì a portata di mano. C'è Malagò, presidente del CONI, che mette una sottolineatura che Juve un'impresa, ma gli scudetti sono 31, discorso che non finirà mai. Lillo, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno, grazie per aver chiamato. Grazie a lei, dica. Niente, permetto che io sono juventino. Sì. Sto godendo per il quarto scudetto. E fa benissimo. Ma volevo riferirmi alla partita del Milan di ieri sera, Mosseggio, che prima mi avete già parlato, ma ormai purtroppo. Mi sembra giusto un'espulsione a 40 secondi dell'inizio della partita. Guardi, io ho detto prima come la penso in maniera leggermente diversa dal mio amico e collega Pierluigi Pardo, che peraltro era a campo, quindi tutte certamente ha ragione più di me. Dal punto di vista tecnico l'espulsione ci stava, se però vogliamo interpretare lo spirito del gioco, come spesso si fa nel rugby, no? Tante volte citiamo il rugby dove c'è l'arbitro che certamente applica le regole, ma adotta quel minimo di discrezionalità, di buon senso tale da non compromettere lo spettacolo, da compromettere una partita. Le regole sono lì da leggere. L'espulsione dopo 49 secondi a termini di regolamento ci poteva stare. Io sarei per un arbitraggio rugbistico e quindi valutiamo la situazione. Poi ci vuole anche personalità e voglia di esporsi a un eventuale diluvio nel caso in cui le cose vadano in un'altra maniera, quindi il Milan metti caso vinca la partita, sai il casino che viene, conoscete benissimo insomma quello che può venire fuori. Ci vuole grande personalità e magari un pizzico di disobbedienza. Paolo Verona, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per la convocazione. Dica. Allora, due cose veloci. Intanto complimenti a Di Natale per il gol che ha fatto. Peccato che nessuna televisione ha fatto vedere che il passaggio di Wilmer era in fuorigioco. Punto uno. Sì. Secondo punto, complimenti a Pozzo, perché se vi ricordate quando contro l'Inter è rimasto in 9, è andato in televisione, ha fatto i suoi piagnistei, sì. E ieri si è piatto servito. È vero, non è rimasto in 9. Sì, quindi lei dice una... Ah, dico, si vede. Quindi lei dice una, così, una compensazione postuma rispetto a quanto aveva lamentato. Dico, il presidente della squadra per cui tifo, che non so se si è capito, ma è Lellas, sì. Di andare in televisione questa sera, mettersi a piangere, stracciarsi le vesti e dire vedete, guardate, faccia... Poi guardate cosa ha fatto l'arbitro Cervellone ieri e... Sì. E guardate voi, insomma, andate a rivedervi la partita e vedete. Poi che c'è danni chi dice, Paolo, c'è chi dice che vanno e vengono, che queste cose vanno e vengono, che si compensano nel corso di un campionato e bla bla bla bla bla bla. Probabilmente non è vero, però o la pensiamo così oppure, come normale, ci adeguiamo alla politica del lamento, del dossieraggio, della ricusazione di certi arbitri. Sappiamo perfettamente come in Italia succeda così e sappiamo perfettamente come ogni lamentela abbia un fine, secondo, terzo o quarto che sia. Se invece parla la pista, c'è poco da arbitrare. Sulle tribune per lui, in piedi sul muretto anche lo staff del Vox. Jorge Lorenzo sta arrivando, ultime centinaia di metri per lui, l'ultima volta la curva 13, falla piano che non serve arrivare impiccati, e poi dai la ruota per aria, su Lorenzo c'è, vince in casa il Gran Premio di Spagna davanti a uno stoico Marc Marquez, meraviglioso nel contenere l'assalto di Rossi, e Rossi anche lui in monoruota, quindi molto soddisfatto per la situazione di primato nella classifica generale che mantiene. Avere vinto questa gara è importante, importantissimo, perché dopo qualche mese in difficoltà, senza fare nessun podium, finalmente dominare tutte le prove e finalmente vincere è molto speciale, specialmente in Jerez, no? che è la gara più speciale di tutto il campionato, no? Incredibile, sono tanto in tensione ancora che non posso sfruttare totalmente questa vittoria. Al sesto giro, settimo, ho visto che mi diceva fare molto male il braccio destro, perché con il sinistro non poteva fare molta forza e la faceva tutto con il destro, che era un po' quello che mi preoccupava di più. Lorenzo, da appena sceso in pista, è andato molto forte e ed è riuscito sempre a guidare bene, e in questa pista devo dire che Lorenzo è sempre stato veramente forte, e comunque penso che abbia fatto uno dei weekend migliori della sua carriera, no? Sempre arrivato davanti, ha dominato, diciamo. Non so se sia la potenza dell'inchiostro, cioè quello che sta scritto sul contratto che lega di nuovo Lorenzo alla Yamaha anche per l'anno successivo. Fatto sta che ieri abbiamo visto un Lorenzo che non vedevamo da due stagioni l'anno scorso, da dimenticare. Sembrava un pilota bastonato, distrutto nel morale. Invece ieri ha messo una modalità Lorenzo, partenza perfetta, giri a cannone, precisi, inequivocabili, e così ha vinto la gara. Loris Reggiani, che sentiamo dopo ogni Gran Premio su Sky. Ciao Loris. Buongiorno, ciao a tutti. Ti ha sorpreso la gara di Lorenzo? Sì. Aggiungo, ti ha sorpreso la gara di Marquez, che sembra a questo punto attaccabile da tutte le parti? No, quella di Marquez no, mi ha sorpreso quella di Lorenzo. Marquez era menomato, quindi non poteva fare più di quello che ha fatto, e forse non l'avrebbe potuto fare nemmeno se fosse stato integro, sì, con un Lorenzo così stratosferico. Ecco, la velocità che ha messo in pista Lorenzo ieri è stata veramente disarmante. Non ha solo vinto, ha fatto dei record sia in prova che in gara, ha battuto dei record, quindi è stato fortissimo. Ecco, ha risposto molto bene a quanti lo criticavano, mi ci metto dentro anch'io, perché bisogna anche riconoscere quando si sbaglia. Io avevo pensato che lui fosse un pilota oramai psicologicamente un po' allo sbando, invece ha risposto in una maniera molto molto molto perentoria ieri. Adesso si deve confermare, però se ce l'ha fatta ieri non vedo perché non debba farcela. Ripetere una gara come quella di ieri sarà sicuramente impossibile, però ecco, a restare a quei livelli lì vorrebbe, sì, dire tornare a vedere un Lorenzo degli anni migliori. Certo, l'abbiamo visto tante volte correre così. Guarda, io ricordo una gara a Misano, non l'anno scorso ma 2 anni fa, che Lorenzo vinse, e Valentino Rossi dopo dichiarò: Lorenzo parte perfetto, fa i primi 3 giri in cui non riesce a stargli dietro e poi vince la corsa. Io non so come fa. Quel Lorenzo lì non l'abbiamo più visto, l'abbiamo rivisto ieri. Non so quanto in questo discorso possa centrare l'inchiostro di cui parlavo prima, cioè il fatto di avere prolungato il contratto con la Yamaha. Secondo me no, da quanto si sa era lui che aveva provato a chiedere alla Ducati una sistemazione, un ingaggio, quindi era lui che non era Yamaha che aveva dei dubbi su di lui, ecco. Poi dopo in Ducati si sono ben contenti dei 2 Andrea che hanno, e evidentemente gli ha risposto che il posto per lui ancora non c'era. Comunque, se non c'era, non c'era comunque al team interno, e allora lui ha deciso di tornare a firmare un contratto con la Yamaha. Queste sono le voci di corridoio, insomma, che mette in giro Carlo Pernat. Adesso penso che lui ne sappia più di me, perché lui è sempre in pista. E quindi lo prendo per buono, per cui no, io nelle prime 3 gare ci vedo più proprio una serie sfortunata di situazioni, perché non bisogna dimenticarsi che una volta era mezzo malato, un'altra volta gli si è staccato un pezzo di casco, che ovviamente quando ti finisce davanti agli occhi non ti fa perdere concentrazione e anche visibilità visuale, sì. E poi l'ultima volta quella scelta azzardata e sbagliata di gomma anteriore più morbida mi aveva cominciato a far pensare che fosse un Lorenzo un po' in confusione psicologica più che altro. Invece domenica scorsa, ieri è stato perfetto, insomma, non si può assolutamente dire niente. Senti Loris, la corsa di Valentino, podio numero 200, ha provato a un certo punto a riavvicinarsi a Marquez, non ci è riuscito, saggiamente si è accontentato di un terzo posto che lo tiene comunque al comando del mondiale. Corsa da 6 e mezzo? No, ma almeno 8 e mezzo per quanto mi riguarda, nel senso che è il modo giusto per provare a vincere il mondiale. Cioè, mi sembra che non abbia fatto niente di di più e niente di meno di uno che sta pensando che forse quest'anno può veramente vincere il decimo mondiale e rischiare di buttare via 16 punti come abbiamo visto fare a Rins nella Moto2, secondo me sarebbe stato da stupire. Ecco, nel motociclismo, comunque negli sport in genere, credo che sia o anche nella vita in generale, troppo labile la linea sottile, che è troppo sottile la linea che separa l'impresa storica dall'idiozia, ecco. Quindi fosse caduto nel tentativo di prendere Marquez, saremmo tutti qui a dire non si possono buttare via 16 punti così, e invece l'avesse fatto come una gara come la gara scorsa in Argentina, avremmo decantato l'eroe, ecco. Sicuramente, quindi, sicuramente. Un'ultima cosa, Loris, che cosa è cambiato in Marquez? Cosa lo rende attaccabile ora da parte di Valentino, di Lorenzo, delle Yamaha, ma anche delle Ducati, che ieri non sono andate bene, una gara punteggiata da tanti errori, distrazioni eccetera eccetera, però comunque una moto competitiva. Cosa rende adesso Marquez attaccabile? Non lo so, provo, non lo so, perché è difficile sapere esattamente i valori in campo delle moto, del pilota, eccetera. Provo a ipotizzare una sorta di è proprio un'illazione quello che faccio io. Ecco, dopo due anni da dominatore, il primo a vincere un mondiale all'esordio, il secondo a doversi riconfermare dopo aver vinto il primo anno, che è una delle cose più difficili da fare. Forse ha abbassato un po' la guardia, forse non è più concentrato come i primi due anni, forse ha sottovalutato un po' gli avversari, è venuto facile sottovalutare un po' gli avversari e quindi forse si trova un po' in difficoltà così, da persona che ha sottovalutato un po' la cosa, che ha sottostimato il valore delle sue delle imprese degli altri, comunque degli altri piloti. Se si riesce a riprendere, penso che su lui sia abbia un talento tale che possa capire facilmente se questo è il problema, di capire qual è il problema, che era un po' stato il problema di Lorenzo dell'inizio dell'anno scorso. E correre i ripari, ecco. Io Marquez lo vedo più davanti di quello che lo vedo anch'io, quello che abbiamo visto fino adesso. Ma speriamo che non sia così. Grazie Loris, abbraccio. Prego, ciao. Grazie Loris Reggiani. Ascoltatori 800 24 00 24, Flavio Ancona, buongiorno. Buongiorno Carlo Genta, buongiorno. Buongiorno a lei, Flavio Ancona. Genta, io volevo dare una bacchettata sulle mani di Pardo. Lo faccio io. Non lo vedo. Pardo è brillante, simpatico, è competente, però non lo vedo così imparziale ed equilibrato quando deve giudicare le situazioni Milan, crisi societarie, compagnia bella. Lo vedo un pochino impacciato. Anche io sono un abbonato Mediaset Premium. E quando fa la cronaca del Milan lo vedo condizionato, lo sento condizionato nel giudicare episodi. Ma io non... Niente, io guardi, se vuole io una bacchettata sulle dita gliela do volentieri, ma perché mi diverto. Non condivido però quanto lei dice, anche perché ci può essere sempre in casi come questo un minimo di prevenzione, no, in chi giudica. Ah, tu lavori lì, quindi magari sto attento, perché un occhio di riguardo al padrone glielo dai. Io non ho notato questo, non ho mai notato questo, ma neanche parlandoci tutti i giorni non ho notato particolari remore nella sua valutazione delle situazioni Milan. Anzi, mi sembra uno dei più duri nei confronti di Inzaghi, uno dei più decisi nei confronti di Inzaghi, se Inzaghi può essere un parametro di riferimento. Però Flavio, le prometto che Giorgio De Luca mi porta la bacchetta la prima volta che vengo qui, porgerà le mani e io da parte sua gli darò un paio di bacchettate, va bene? Enrico, provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, salve gente. Io le volevo dire che se il calcio non diventa un po' più comunista non potremo più vedere il Verona che vince o ma che stiamo arrivando con i cinesi che comprano il Milan, Partito Popolare Cinese, il okay. Berlusconi vende il Milan ai comunisti, stiamo ecco. arrivando, eh? Vabbè, ma sono comunisti ricchi quelli lì. Va bene. Ormai quelli, no, arrivederci, va già via. Ormai quelli poveri no, non li conosco più. Sono tutti ricchi, sono mica solo quelli del Partito Popolare Cinese, Enrico. Sì, però insomma, faremo fatica a vedere la Sampdoria che vince lo scudetto. Non so, a livello il Benfica che vince la Coppa dei Campioni, ecco, quello so, che voglio dire. Sì, ma questo va, il comunismo è fuori moda anche in altri campionati. No, chiaro, eh. Chiaro. Non mi dica che in Germania o in Spagna il comunismo è imperante. No, ma certo, io voglio dire che sono 3-4 società che riescono a. Prendere tutto, ecco, sì. Tutto lì. Quindi potere al popolo e spogliamo di denari Barcellona, Real Madrid, Juventus, Chelsea e poi chi spogliamo di denari? Bayern Monaco, Manchester United e ridistribuiamo tutto. Ci può stare? Volendo. Gol più belli di ieri? Dai. Calcia! Florenzi chiude la partita ancora una volta, fiato, gambe e piedi per Alessandro Florenzi. In rovesciata l'intervento di Parolo, gol straordinario. Tocco dentro di David Lopez, poi Hamsik! Marek Hamsik! Sblocca il risultato, si toglie la maglia, 75 gol in Serie A per lui, settimo in questo campionato. Scegliete voi se vi pare, io stavo parlando di calcio e comunismo che mi appassionava molto, due note città rosse come Bologna e Livorno. Simone da Bologna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io volevo fare due considerazioni. La prima sul telespettatore di prima, radioascoltatore che diceva di prima, che diceva che Pardo non è imparziale. Secondo me era sicuramente interista, perché Pardo è professionale e imparziale. Però sì, vabbè, no, non facciamo quello. Gli avvocati difensori, un paio di bacchettate gliele do lo stesso, ma perché ripeto, sì. Perché mi diverto. Poi dicevo, sul Milan si sta avendo, diciamo, lo stesso atteggiamento che ha avuto l'Inter di cambiare allenatore e dare colpa sempre agli allenatori. Io sono milanista e vedo un declino societario e a mio parere, poi sentiremo le vostre considerazioni, Berlusconi sta facendo un movimento per alzare il prezzo di questo 51-49 e alla fine terrà la maggioranza e sarà socio con questi thailandesi. Secondo me sarà così. Quindi i thailandesi hanno l'anello al naso e arrivano e dicono: va bene, tu fai il padrone, io ti porto. Facciamo i conti: se il 51 mi costava 500 milioni di euro, facciamo 4,70 e 4,80, te li do così tu. Non so quanto chiuderà la transazione. Ma non lo so nemmeno io, ma io continuo a dubitare del fatto. Poi, io sono un uomo della strada che legge i giornali come lei, tento di informarmi. Però non ce li vedo questi che vengono e portano tutti quei soldi in omaggio a Berlusconi con un inchino e dicono: comanda tu, che io non ce la faccio. Quindi. Io suppongo si andrà in un'altra direzione, quando non lo so. Paolo da Livorno, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io una considerazione brevissima su quel rigore e l'espulsione di De Sciglio. E mi sembra di poter dire, ricordandomi un vecchio Juventus Milan in cui Tardelli fece un fallo clamoroso su Gianni Rivera al primo minuto, noi tutti milanisti, io sono milanista, sì, ricordo. Espulso, e allora è giusto che sia stato espulso anche De Sciglio, perché alla fine quello era. Me lo ricordo bene quel fallo intimidatorio, appena pronti, sul pronti via sulla palla al centro, esatto, nel cerchio di centrocampo. Sì, esatto. Quindi, allora se si deve dire così, bisogna dire che giusto così, insomma, il calcio a volte a me, una volta a te. Però insomma il fallo di De Sciglio era evidente e non sono nemmeno troppo d'accordo sull'applicazione delle regole del rugby, mi pare ne parlava, non so, forse io. Cioè credo che alla fine, ecco, l'unica considerazione giusta secondo me è quella di Pardo, e dice il portiere è un po' un particolare però per gli altri sì, no, resta una regola che comunque può farci discutere finché campiamo, quindi o cambiamo quella o si trova il coraggio di interpretarla in maniera diversa, ma la regola parla in maniera evidente: rigore ed espulsione per fallo su chiara occasione da rete, secondo me è una specie di condanna a morte sportiva non solo della squadra che l'ha subita, ma della partita intera. Dunque è una regola che a me piace poco, perché penso che rigore e ammonizione possano essere, salvo, ripeto, falli di particolare gravità o cattiveria o atti a far male, possano essere punizione sufficiente. Domani, ragazzi, ok, tutti convocati domani dopo il GR delle 14, Giorgio De Luca il nostro autore, Daniele Bonamici in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao. Arrivederci, ragazzi, ciao.